Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Che state facendo? Siete quasi pronti per uscire di casa? State pantofolando appena usciti magari dalla doccia? Allora, io spero di trovarvi in questo momento magico, perché oggi prepariamo la colazione insieme. Dai, il primo pasto della giornata insieme è una cosa che mi piace pensare, perché la colazione è un pasto importante ma anche intimo che facciamo con le persone a cui vogliamo bene. Io ho invitato la dottoressa Silvia Goggi, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Oggi a fare colazione con noi, l'ho praticamente risucchiata, messa nella famiglia di Obiettivo Salute Risveglio. Dottoressa Goggi, lei è un medico e specialista in scienza dell'alimentazione, per cui è la persona ideale per fare colazione con noi al mattino. Tra l'altro ho una bella notizia per le amiche e gli amici che ci stanno seguendo: possiamo anche sentirci su WhatsApp oltre che sui social. Che cosa dovete fare? Facilissimo, chi segue Radio 24 il numero lo sa a memoria, lo ripeto: 349-238-6666, mandateci un messaggio. Mi farebbe piacere, ad esempio, sapere come va la vostra giornata di primo mattino. Oppure magari vi siete svegliati e avete un dubbio, una domanda? Bene, voi mandatemela e io acchiapperò un esperto e sui nostri social e sulla nostra pagina farò rispondere alla vostra domanda. Quindi rimarremo sempre in contatto. Dottoressa Goggi, in contatto, belli, attivi e svegli. E quindi ben nutriti, a partire dalla prima colazione. Varietà, equilibrio, gusto, mettiamo tutto insieme. Quanto è importante la prima colazione? Allora, beh, questo credo che sia l'argomento più trattato da tutti i nutrizionisti del pianeta. Dopo il lungo digiuno notturno è necessario, il nostro corpo ha bisogno di nutrienti, ma non solo, ha bisogno anche di liquidi. Quindi diciamo che possiamo trovare nelle colazioni di tutto il mondo, che poi sono variano in base alle culture e alle abitudini, dei minimi comuni denominatori. Quindi cosa deve avere la nostra colazione? Deve avere possibilmente dei fluidi, può anche essere solo acqua se a qualcuno non piacciono le alternative, o tè o tisane per esempio. Poi deve avere una fonte di carboidrati complessi, quindi la colazione serve per dare energia a lento rilascio anche nel corso della mattinata, ed è questo il problema di colazioni sbagliate, che danno magari dei picchi glicemici se sono ricche di zuccheri, e poi l'attenzione cala nella prima parte della mattinata e la fame aumenta, e con essa la probabilità di fare scelte sbagliate. Lei l'ha raccontata in modo molto equilibrato e gentile, ma so che dove vuole andare a parare. Ah, buonissima, diciamolo, il cornetto e cappuccino. Sì, buonissima. Però voi ce l'avete qui, ma il cornetto e cappuccino. Quando poi uno lo mangia si sente già subito in colpa, anche se ci sono delle aggiunte che possiamo fare. Non si deve sentire in colpa, per carità, se lo può godere il cornetto e cappuccino, ma non può essere la colazione di tutti i giorni e non lo può essere per nessuno, perché una cosa meravigliosa come la farina con la quale viene fatta la brioche, è quello che ci servirebbe come pane o come cereale, però viene peggiorata dall'aggiunta di grassi, siano essi burro ma anche margarina. Non è che le brioche vegane sono esenti da questo, quindi il suo potere calorico viene aumentato in poco volume, e gli zuccheri presenti in quantità, chiaramente perché è un dolce, fanno sì che dopo aver mangiato una cosa piccola e che ci ha dato moltissime calorie, noi abbiamo fame anche subito dopo. Quindi oltre al danno, la beffa non è una colazione saziante, ma soprattutto non è nutriente nel vero senso del termine. Dove sono le vitamine, gli antiossidanti in un cornetto? Però se mi piace ogni tanto la brioche, il cornetto, che dir si voglia, il cappuccio, ci metto vicino una spremutina, 3 o 4 mandorle, nocciole, che dice? Io direi di godersela senza fare tutte queste dietrologie di cosa ci metto vicino. Godiamocela, ma l'importante è che non sia la colazione abituale di mi prendo il cappuccio e il cornetto al bar prima di entrare al lavoro. Perché è importante che noi puntiamo sull'equilibrio, sulla qualità, ma anche sulla varietà. Lo abbiamo detto tante volte, il microbiota, che è un po' il regista della nostra salute, non ama la solita minestra, vuole cose varie, per cui anche la colazione potrebbe essere un'occasione per far rifornire il nostro organismo magari di nutrienti che durante la giornata, per una serie di ragioni, non riusciamo a portare in tavola. Dottoressa, ci aiuti per lei? Esempio variando il cereale che dobbiamo consumare a colazione. La brioche è fatta con farina di frumento, mentre invece se facciamo colazione a casa con un po' di calma possiamo scegliere del pane di farro, del pane di camut, oppure possiamo mettere dell'avena nel nostro latte, nel nostro yogurt. Quindi ho già nominato tre cereali diversi, dei cereali soffiati o in fiocchi, spaziando per esempio dal grano saraceno, dal miglio, che magari sono cereali che non si riescono a cucinare per i tempi di cottura, per la vita frenetica, ma che a colazione non costa niente aggiungere alla propria colazione abituale. Allora oggi io ho promesso alle amiche, ricordate WhatsApp 349-238-6666, che cosa state mangiando, che cosa vorreste mangiare, ci sediamo a tavola, che cosa prepariamo volentieri per la nostra colazione? Allora sicuramente tagliamo della frutta e la mettiamo bene in vista sul tavolo, così che anche i bambini, vedendosela davanti, imparino che è un alimento che non può mai mancare nella dieta di nessuno, e diamo il buon esempio mangiandolo anche noi. Possibilmente frutta intera da masticare, non estratti o spremute, che per carità può succedere ogni tanto, così come il cappuccio e la brioche, ma la frutta, anche per nutrire il nostro microbiota, è meglio mangiarla con le fibre che contiene, perché se no è acqua, zucchero e vitamine. Poi scegliamo una fonte di carboidrati complessi, che può essere del pane integrale oppure dei cereali. Il pane integrale possiamo spalmarlo con creme di frutta secca, che adesso si trovano in tutti i supermercati, e non mi riferisco alle creme di nocciola con nocciole al 10% o meno ancora, che sono zucchero e grassi di dubbia qualità, ma alle creme 100% frutta secca, quindi crema di mandorle al 100%, di nocciole al 100%, senza aggiunta d'altro. Cosa leggiamo in etichetta? Dovremmo leggere mandorle, punto, nocciole, punto. Quindi un'etichetta molto breve, direi. Sì, un'etichetta che non va neanche interpretata, perché è molto semplice da interpretare. Diciamo che quando dobbiamo interpretare un'etichetta butta già male, perché se contiene troppi ingredienti può essere che da qualche parte ci sia la fregatura. Su questo pane, con della crema di nocciole oppure anche con della crema di sesamo, che è la famosa tahina, possiamo mettere della frutta a fette, delle banane a fette oppure delle fragole se è stagione, o dei kiwi, perché no. Mentre i nostri cereali possiamo immergerli in un liquido, come per esempio una bevanda vegetale, se si vuole mangiare vegetale anche a colazione, che sia però addizionata di calcio, perché venendo diciamo da un'alimentazione dove ci si rifugia nei latticini per assumere calcio, per chi non ha ancora dimestichezza con le altre fonti vegetali, che per carità esistono, perché il calcio è un minerale che si trova nel suolo e viene accumulato in alcuni vegetali più di altri, come è comodo. Sono? Quali? I vegetali? I vegetali che, allora, le verdure calcio. Verdi in foglia, sì. Le verdure della famiglia delle crucifere, il sesamo, le mandorle, i fichi secchi, la soia è un alimento molto ricco di calcio, ma per chi magari fa ancora fatica, ed è un peccato, ad avere dimestichezza con questi cibi, una bevanda vegetale è uno scambio alla pari, perché si scambia un liquido che ha 120 mg di calcio ogni 100 ml con uno che ne ha l'equivalente. Quello che bisogna considerare è che, a parte le bevande di soia, le altre bevande vegetali non contengono praticamente proteine, quindi andranno assunte agli altri pasti della giornata. Dottoressa, la colazione l'abbiamo fatta, ma poi ci sono gli altri pasti della giornata. Nel suo ultimo libro, di cui noi abbiamo parlato anche in una diretta Facebook, lei suggerisce di scegliere almeno un pasto per mangiare legumi. Questo è poi il punto di incontro, di contatto tra vegani e onnivori, o come dico io, il ritorno e l'esaltazione della dieta mediterranea. Il libro infatti si intitola "È facile diventare un po' più". C'è quello un po' più vegano che può fare la differenza, dottoressa? Sì, il punto di partenza anche per chi non è vegano è comunque mangiare legumi una volta al giorno, quindi sarebbe bene partire da questo punto per poi eventualmente considerare di passare una dieta completamente vegetale, ma meno di una volta al giorno i legumi non possono essere mangiati. È proprio questo che raccomanda la dieta mediterranea. I vegani vengono sempre visti come provenienti da un altro pianeta, che mangiano solo cibi strani, ma in realtà sono coloro che applicano la dieta mediterranea invece che un pasto al giorno a pranzo e cena. Dottoressa, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buonissima giornata. Con questo sprint della colazione sicuramente andrà bene. Noi ci sentiamo, noi intesi noi che facciamo colazione ogni giorno a Obiettivo Salute Risveglio, a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e subito dopo per la diretta Facebook. Quindi da oggi, oltre che i nostri social, siamo anche su Instagram, come sapete, canale YouTube e quant'altro, utilizzate anche WhatsApp, così ci salutiamo. Buona giornata dalla vostra salutare Ossessione Quotidiana.